E questa era la sigla della, la sigla del protagonista di stasera della puntata di Tonight Alive. Tanto per cambiare, ovviamente, l'ennesima eccezione alle regole poste fino ad ora per Tonight Alive. Vedremo tra poco perché. Assolutamente un'eccezione. Stiamo parlando di Nicholas Rodney Drake, detto Nick, veramente un grandissimo della musica folk, riscoperto dall'oblio una ventina di anni fa grazie a delle pubblicità che hanno usato le sue canzoni, e poi da lì ovviamente ritirato fuori dall'oblio, perché purtroppo in vita il buon vecchio Nick non ha avuto così tanta fortuna come andremo a vedere. E mi piaceva stasera raccontarvi la sua storia qui a Tonight Alive. Però come sempre all'inizio, come ripeto sempre, ricordiamo i canali per mettervi in contatto con noi qui di Radio Wombat, e ovviamente sono sempre il nostro magnifico sito, sempre aggiornato, wombat.noblogs.org, la nostra posta, che è postawombat@insiberia.net, e i nostri canali social, come ormai ci dobbiamo adeguare al segno dei tempi, quindi anche noi di Radio Wombat abbiamo i nostri canali social, sia su Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, sia la nostra pagina su Facebook, che è facebook.com/radio-wombat-firenze. Però ecco, un'altra eccezione per la puntata di stasera. Prima di iniziare volevo ricordarvi un impellente appuntamento che ci sarà nei prossimi giorni, anzi settimana prossima, esattamente il 9 di dicembre al Next Emerson ci sarà la festa benefit per la Palestra Popolare, con stage di fucilato aperto a tutti, ovviamente, dalle 17 alle 18 in puro stile della Palestra Popolare. Seguiranno poi dimostrazioni di fucilato alternate a battle di breakers. In questo caso i breakers di Firenze sfideranno i breakers di Pisa tra un incontro e l'altro. E poi apericena, ovviamente, dopo le dimostrazioni, e durante l'apericena anche uno spettacolo di cabaret offerto dalle ragazze che si allenano in palestra. E poi, finita la cena e finita lo spettacolo, inizierà anche la musica, ovviamente, DJ set, festa, birre e spettacoli pirotecnici, ovviamente. Spettacoli pirotecnici nel senso di giocoleria con il fuoco. Non mancate alla festa benefit della Palestra Popolare al Next Emerson, ricordo, sabato 9 dicembre, e inizieranno dal pomeriggio più o meno intorno alle 5. Però torniamo a bomba al protagonista di stasera che ho scelto per voi per stasera, ovvero Nicholas Rodney Drake, detto Nick. E prima curiosità di Nick Drake è che è nato a Yangon in Birmania, l'attuale Myanmar, il 19 giugno del 1948. È nato in Birmania perché il padre Rodney, che era ingegnere, si era trasferito là per lavoro insieme alla moglie Molly e alla figlia Gabrielle, che è la sorella maggiore di Nick, e che poi tra l'altro ho scoperto essere divenuta in seguito una nota attrice specialmente in Inghilterra, per aver interpretato il tenente Gay Ellis nella serie televisiva UFO, andata in onda sui canali britannici dal 69 al 70, solo 2 anni, ma diventata poi, ho scoperto, una serie cult assoluta nel mondo anglosassone. Quindi è diventata famosa anche la sorella in casa Drake. Però dopo 2 anni in Birmania, nel 1950, la famiglia Drake ritorna nella natia Inghilterra, torna proprio a Tanworth in Arden, nel Warwickshire, al sud di Birmingham, dove tra l'altro ovviamente passerà tutta l'infanzia e l'adolescenza, e dove frequenterà anche il Fitzwilliam College dell'Università di Cambridge, dove Nick studiò letteratura inglese. E già questo vi potrebbe far capire un po' di coordinate. Erano gli anni anche quelli della nascente scena di Canterbury. Però Nick Drake non faceva, essendo un folk singer, non faceva parte della scena del suono canterburiano, come Soft Machine, David Allen, i Gong e tutta la compagnia cantante. Erano molto più orientati verso il progressive, il jazz e ambiti limitrofi. Invece, come poi scopriremo, Nick Drake sarà soprattutto un folk singer. Scusate, malanni di stagione. E comunque, fin da piccolo dimostrò un grandissimo interesse per la musica, che era una passione che gli aveva trasmesso sua madre, che tra l'altro lo incoraggiava fin da piccolo. Infatti gli insegnò a suonare il piano, e fin da quando era veramente un microbo, Nick Drake cominciava a comporre le sue prime canzoni, che poi la madre registrava in un registratore a bobina, reel to reel si dice in inglese, che poi teneva queste registrazioni nella, insomma, per sé, come ricordo familiare, ecco. E Drake già a scuola suonava al piano nell'orchestra scolastica, dove tra l'altro imparò a suonare anche il clarinetto e il sassofono. E nel 1964 formerà la sua prima band, chiamata i Giardinieri Profumati, i Perfumed Gardeners, con i suoi compagni di scuola. E Drake, in questa sua prima formazione, suonava il piano, occasionalmente il sax alto, oltre ovviamente a metterci la voce. E i Perfumed Gardeners fondamentalmente erano una cover band che suonavano grandi successi internazionali, rhythm and blues e anche standard jazz. Poi nel settembre del 1967 incontrò Robert Kirby, che era uno studente di musica, e che, come vedremo in seguito, poi li legherà una fortissima amicizia. E comunque erano anche gli anni in cui Drake scopriva sia la musica folk, ma la musica folk sia britannica che americana. Infatti sicuramente tra le sue primissime influenze non possiamo non notare una grandissima influenza, ovviamente, di Bob Dylan, come per tutti i folk singer di quegli anni, ma anche di Donovan, di Van Morrison e di Phil Oakes. E iniziò a a suonare nei piccoli club, nei piccoli locali e nelle caffetterie intorno a Londra nel febbraio del intorno a Londra, sì, nel febbraio del 1968, mentre stava suonando in apertura per niente po' di meno che Country Joe and the Fish al Roundhouse di Camden Town, tra gli ascoltatori c'era anche Ashley Hutchings, che se non vi dirà niente è comunque quello che era già il bassista dei Fairport Convention, grande band jazz rock degli anni, della fine degli anni 60, inizio anni 70. E Hutchings ricorderà che rimase sicuramente innanzitutto rimase impressionato dall'abilità di Drake alla chitarra, ma forse rimase ancora più impressionato dalla sua immagine, dall'immagine che dava. Sembrava già una star, era bellissimo e sembrava lì sul palco con la sua chitarra fosse almeno alto 2 metri per l'immagine che dava. E Hutchings introdusse Drake al produttore americano Joe Boyd, giovanissimo tra l'altro, Joe Boyd allora solo 25enne, che già comunque produceva e stava dietro alla Witch Season Productions, che insomma era già titolare di un'etichetta a 25 anni, erano decisamente altri tempi. E a quel tempo la Witch Season Production era, come si dice, una sussidiaria della Island Records. E Joe Boyd, tra l'altro, ha il grandissimo merito di aver scoperto appunto i già nominati Fairport Convention, ma è stato anche il responsabile della scoperta di John Martin e dell'Incredible String Band. Quindi sicuramente anche se così giovane, una figura fondamentale, assolutamente rispettata per la scena folk della Terra d'Albione. Tra i due nacque subito un legame fortissimo e fin dall'inizio Boyd divenne un po' il mentore dell'ancor più giovane Drake. E per lui decise di registrare una demo di 4 brani registrata proprio nella camera di college di Drake, e ascoltandone il risultato Boyd si offrì istantaneamente di fargli da manager, da produttore e quanto altro. E iniziarono il lavoro per quello che poi diverrà l'album di debutto di Nick Drake, da cui ci andremo a ascoltare subito questa prima canzone, che tra l'altro è anche una delle 4 che Nick Drake aveva registrato nella sua camera di college in quel primo demo. E quindi ascoltiamoci River Man, Nick Drake, Tonight Alive. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man tells me all he knows about the way his river flows and all night shows summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for lost the pain. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Questa era Riverman di Nick Drake, poi apparsa appunto come primo brano nella, questa è la versione appunto poi comparsa nel primo album, infatti quella che poi era registrata nella demo ovviamente non aveva le orchestrazioni, gli archi, ma era solo chitarra e voce di Nick Drake. E appunto siamo arrivati al primo album di Nick Drake in questo tardo 1968, e il primo album di Nick Drake si chiama Five Leaves Left, che ovviamente è riferito a quel bigliettino che si trova nelle cartine, che ti sta avvertendo che appunto le stai per finire e che te ne manca solo 5. Però ovviamente il significato più ampio di questo Five Leaves Left è che sta finendo, è una situazione agli sgoccioli, appunto quando trovi il fogliettino che ti dice che te ne manca solo 5, sei agli sgoccioli, infatti. E infatti, oltre a essere il titolo, è anche più in generale il mood di tutto questo primo album, proprio lascia trasparire l'indole schiva e malinconica dell'autore, che tra l'altro rimarrà, come vedremo, una costante per tutta la sua purtroppo breve carriera. E appunto, in quel 1968 Drake inciderà Five Leaves Left con Joe Boyd, appunto, nel ruolo di produttore, e ad affiancare Nick Drake nelle registrazioni, Boyd scoverà dei pezzi da 90 della scena folk londinese, come appunto già il succitato chitarrista dei Fairport Convention, Richard Thompson, e gli affiancherà anche quel grandissimo bassista che è Danny Thompson, al tempo bassista dei Pentangle. Però ecco, Danny Thompson è stato veramente un nome tutelare della scena folk e anche folk rock inglese per tutto l'arco degli anni. È stato veramente il bassista folk per eccellenza. Mi ricordo, per esempio, era il bassista anche in Dream Letter di Tim Buckley, che vi ho già fatto ascoltare nella puntata di Tim Buckley. Il bassista era proprio Danny Thompson, insomma, c'aveva le mani in pasta un po' in tutto l'ambito folk inglese. E cercando un po' di curiosità, inizialmente gli arrangiamenti vennero affidati a Richard Hewson, che però nelle registrazioni di prova dell'album si percepisce che voleva dare questa impronta pop. Però ecco, il suo lavoro andava in una direzione che non accontentava nessuno, né Boyd, era appunto il produttore, che non era per niente convinto di questa scelta, né tantomeno Nick Drake stesso, che non si sentiva per niente a suo agio con questo taglio pop che Hewson voleva dare al disco. E quindi, come si suol dire, lo segarono e si decise di cambiare, e Nick Drake propose l'amico Robert Kirby, che già vi avevo nominato prima, che ovviamente, essendo l'amico di Drake, aveva già tutto pronto per gli arrangiamenti delle canzoni dell'amico. E risentendo l'album non possiamo certo dire, anzi non si può altro che dire, che la scelta fu decisamente azzeccata. E sentiamoci Three Hours, sempre da Five Leaves Left, Nick Drake, Tonight Alive. From the city and down to the cave, in search of a master, in search of a slave. Giacomo's free. Taking his walls down to the sea. In search of a lifetime to tell when he's home. Such of a story has never been known. To be seen on their own. 3 hours is needed to leave from the mall. 3 hours to wonder. Questa era la bellissima Three Hours di Nick Drake, sempre su Five Leaves Left. E ecco, l'accoglienza del pubblico e della critica a questo primo album era stata abbastanza tiepida, per usare un eufemismo, e sicuramente il carattere di Nick non lo aiutava per niente. Per promuovere l'album, Joe Boyd organizzò ovviamente per lui una serie di concerti in giro per l'Inghilterra, ma Nick non era per niente pronto a sostenere il brusco contatto con la gente dei pub o dei piccoli teatri. E nell'agosto del 1969, tra l'altro, Nick Drake registrerà 5 canzoni, di cui verranno, ne verrà pubblicate solo 3, per una session da John Peel, per, appunto, per lo show di John Peel alla BBC. E anche questo è un pezzo di storia. E 2 mesi dopo aprirà il concerto dei Fairport Convention alla Royal Festival Hall di Londra, e seguiranno delle apparizioni in piccoli folk club sia a Birmingham che a Hull. Soprattutto si ricorda di questa performance, diciamo tra virgolette, a Hull, perché dovete capire, per immaginarvi un attimo, le canzoni di Nick Drake richiedevano ogni canzone richiedeva un'accordatura diversa della chitarra, e quindi ovviamente necessitava di tempo questa cosa di essere fatta, e vi potete ben immaginare che in ambienti come quelli dove andava a suonare ai tempi Nick Drake, questa cosa non era molto molto ben accetta, ecco, non era sicuramente un animale da palco, anzi la maggior parte delle volte, quasi tutte, si limitava semplicemente a sedersi e a sussurrare le sue canzoni guardando per terra, mentre il pubblico beveva, parlava a alta voce, faceva rumore ignorando la sua musica. E questo sicuramente già per il carattere molto introverso che aveva Nick Drake sicuramente non l'ha aiutato. E John Martin, amico di Nick Drake, si erano conosciuti, appunto, come detto prima, attraverso Joe Boyd. E tra l'altro John Martin nel suo capolavoro del 1973, Solid Air, che io vi consiglio veramente a scatola chiusa per quanto è bello quell'album, dedicherà all'amico Nick Drake, appunto, la canzone omonima dell'album, Solid Air. E appunto John Martin, ricordando di quando Nick andava sul palco, ricordava: io potrei suonare dovunque, se la gente non sta zitta le urlo di fare silenzio e continuo la mia performance. Nick semplicemente non poteva. Sentiamoci un altro capolavoro di Nick Drake, Cello Song, Tonight Alive. Spring has sprung. when the armies of emotion go out to fight, the while the earth sinks to its grave, you sail to the sky. Questa era la bellissima cello song, sempre presa da Five Leaves Left di Nick Drake. E nel novembre del 1970 arriverà anche l'ora del secondo lavoro di Nick Drake, sempre affiancato dal produttore Joe Boyd. Stavolta decideranno di dargli un tempo, come si dice, più upbeat e un sound più jazzato è la scelta per questo album. E il titolo dell'album, Breather Later, è semplicemente la traslazione cockney di Brighter Later, che sarebbe in miglioramento un termine usato ovviamente nei bollettini meteorologici, che in slang cockney, ovvero di Londra, è Brighter Later. Spero di averlo pronunciato per bene, se no mi perdonerete. E come nel precedente Five Leaves Left, anche qui Nick Drake è accompagnato da alcuni elementi dei Fairport Convention, in quest'album esattamente da Dave Mattex, Richard Thompson e da Dave Pegg, e ritornano anche gli arrangiamenti orchestrali curati dall'amico Robert Kirby. Però particolarità di questo secondo album, in due brani, Fly e Northern Sky, compare anche niente poco di meno che John Cale dei Velvet Underground, anche solo per farvi capire, ecco, se si era mosso John Cale vuol dire che proprio nonostante il successo non arrivasse, se si era mosso John Cale per collaborare con Nick Drake, probabilmente qualche cosa sotto di buono c'era, perché non credo che John Cale si muovesse per andare a proprio a collaborare con chiunque. E appunto di questo Brother Leather sentiamoci appunto la canzone scritta insieme in collaborazione con John Cale, Northern Sky. Nick Drake, Radio Wombat, Tonight Alive. I never felt magic raises this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. Questa appunto era la bellissima Northern Sky scritta insieme in collaborazione con John Cale dei Velvet Underground. Sicuramente la dimensione con anche una band d'accompagnamento fa cambiare totalmente il suono di Nick Drake rispetto a al solo chitarra e voce e scarni arrangiamenti del primo album. Qui nel secondo andiamo già tutto a un'evoluzione e si va già da un'altra parte, insomma. E sicuramente Nick Drake coniuga il rhythm and blues magico e introverso di Van Morrison con le acrobazie psichiche e vocali di Tim Buckley. E un linguaggio sempre più tenue spiega la dolce tristezza, la sua dolce tristezza adolescenziale, che non è ancora crisi esistenziale, ma che è ancora tenere e sognante come negli adolescenti. E sia Boyd che il tecnico del suono Wood erano assolutamente convinti che questo album avrebbe avuto un grande successo commerciale, cosa che ovviamente poi non si è avverata, perché il Breather Leader ha venduto solamente poco meno di 3.000 copie, e ricevendo, come anche nel caso del primo album, recensioni dalla stampa specializzata abbastanza contrastanti, ovvero c'era chi ne tesseva le lodi, ma c'era anche chi gli segava le gambe. Questo era ovviamente era un'altra cosa che non faceva bene all'abilissima psiche di Nick Drake. E adesso ascoltiamoci un altro stupendo brano di questo secondo album di Nick Drake. Andiamoci a sentire One of These Things First, stupenda, qui a Tonight Alive, Radio Wombat, Nick Drake. I could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, as steady as a rock. Could be here and now. I would be, I should be better how. I could have been but one of these things first. I could have been in your door. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been. Could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been. I could have been Era One of These Things First di Nick Drake, sempre dal suo secondo album. Però ecco, subito dopo la sua uscita, l'uscita del secondo album, l'amico, mentore e produttore Joe Boyd pensa bene di, come si suol dire, fare il gesto dell'ombrello e vendere la sua Witch Season all'Island Records e scappare tra virgolette a Los Angeles per lavorare per la Warner Bros. Come arrangiatore di colonne sonore per il film, e praticamente abbandona Nick Drake facendo il gesto dell'ombrello, ecco. Si potrebbe dire dopo questa decisione. E dopo questa perdita, dopo la perdita di quello che lui, che Drake considerava in assoluto il suo mentore, insieme anche alle vendite esigue dei suoi primi due album, gettano Nick Drake verso la depressione più profonda, e la sua attitudine e il suo modo di porsi verso Londra è radicalmente cambiato. Adesso ora odia vivere da solo, è visibilmente nervoso e assolutamente non a suo agio nel fare concerti e performance live già in quell'inizio del 1970. E a giugno Nick Drake darà la sua ultima esibizione live al Lewell Technical College del Surrey. E Ralph McTell, un altro folk singer che suonava quella sera in quella serata, ricordando quella notte, dirà che Nick Drake era quella sera era assolutamente monosillabico. E in quel particolare concerto era veramente, veramente timido. Quando aveva finito il suo primo set, qualcosa di orribile deve essere successo, perché subito dopo, mentre stava suonando la sua canzone Fruit Tree, improvvisamente smette di suonare, prende, si alza dalla sedia e semplicemente se ne va dal palco per non riapparirvi mai più per suonarvi in pubblico. e questo la dice lunga su lo stato psichico in cui si trovava Nick Drake in quei momenti. E sentiamoci appunto adesso un'altra grande canzone di questo secondo album, che è At the Chime of the City Clock, Nick Drake, Tonight Alive. City freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out, see your trousers don't taper. Saddle up, kick your feet, ride the range of a London street. Travel to a local plane, turn around and come back again. And at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is worth to the city man who leaves his arm down. Talk with neighbors only. For games you play, make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are, and the beats around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face, who knows what a face is for. To ground with a face so pale, I never heard about the change. Showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, I find out the face that's fair. Keep it by your side. When the light of the city falls, fly to the city walls, take off with your pride. But at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is worth to the city man who leaves his armor down. Thank you. Questa era At the Chime of a City Clock, l'ultimo brano che ci sentiremo da questo Brother Leader del il secondo album di Nick Drake. E comunque in quel 1971 la sua frustrazione ben presto si trasformerà nella depressione più nera, che convincerà la famiglia a portarlo comunque al St. Thomas Hospital di Londra, ospedale psichiatrico, per vedere di fargli fare un ciclo di cure. E dopo questo ciclo di cure gli verranno prescritte comunque un ciclo di antidepressivi, ma comunque anche con questo rimedio Nick Drake si sentirà sempre non per niente a suo agio, e assolutamente anche imbarazzato sia a prenderle che a parlarne. Infatti per un lunghissimo periodo ha provato anche a nascondere che prendeva gli antidepressivi anche ai suoi amici più stretti. E nel 1972, con il solo tecnico del suono John Wood in veste di produttore e tra mille difficoltà legate alla sua precaria condizione psichica e clinica, darà alla luce il suo terzo album Pink Moon, un disco assolutamente struggente e innovativo e sicuramente inquieto, fatto solo di canzoni per sola chitarra e voce, quindi tolti via tutti gli arrangiamenti, tutte le orchestrazioni, tornerà alla sola chitarra e alla sola voce. La sessione di registrazione durerà solamente due notti, in cui nello studio di registrazione saranno presenti solamente Nick Drake e John Wood. E tutte le canzoni di Pink Moon sono molto brevi, se pensate che le 11 tracce dell'album in totale durano solamente 28 minuti, ma Wood dirà poi che sarà il tempo giusto per cui doveva durare questo album. Non c'era assolutamente bisogno di nient'altro che allungasse i tempi di registrazione, oppure mettere altri brani in più. L'album era già perfetto, anche se così breve, non possiamo che dargli ragione poi una volta ascoltato. E questo cambio radicale è dovuto sicuramente alla condizione psicofisica di Nick Drake, ma anche dal fatto che era assolutamente insoddisfatto del sound d'accompagnamento molto orchestrale dell'album precedente, e comunque pensava che con tutti quegli archi, quegli ottoni, i sassofoni e tutti quegli arrangiamenti così elaborati fosse troppo pieno, troppo elaborato il sound per la sua voce e per l'idea di musica che aveva dentro la sua testa. E quindi adesso ascoltiamoci due stupendi brani da quest'ultimo album di Nick Drake. Prima di tutti ci andremo a ascoltare la title track, Pink Moon, Nick Drake, Tonight Alive. saw it written and I saw it say, think the moon is on its way. None of you stand so tall. Think the moon gonna get you. Questa appunto era Pink Moon. Adesso andiamoci a sentire Place to Be, sempre da Pink Moon. When I was young, never saw the truth hanging from the door. Now I'm only seeing face to face. Now I'm only gotta get a clean place. Questa era Place to Be, sempre di Nick Drake. E questo disco sembra veramente il frutto di un travaglio esistenziale sempre più sofferto. Le sue favole adolescenziali degli esordi si sono trasformate in soffi freddi che esalano un senso acuto di desolazione e indulgono nella suggestione della solitudine, ossessionate dalla caducità di tutte le cose. La crisi è arrivata a un punto di non ritorno. Il tessuto armonico è disossato, gracile e smunto. Il canto è un bisbiglio dimesso. La concisione dei brani ha del maniacale e i testi sono indecifrabili e allucinati. Sono i frammenti di un delirio ormai prosciugato, confessioni che sembrano cadaveri insepolti, nei quali la chitarra ha spesso il rintocco malinconico di un orologio. Ascoltiamoci No, Nick Drake, Pink Moon, Tonight Alive. Sicuramente molto blues, con molta influenza blues, questa No di Nick Drake. E adesso sentiamoci subito a ruota Parasite, sempre da Pink Moon del 1971. Lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Seeing the light in a station bar and traveling far and thin. Sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. Hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? Now take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of the sing a jig in church with chimes, a sign of the times today. I'm hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through. For I am the parasite who travels two by two. When I'm lifting the mask from a local clown, I'm feeling down like him. And I'm seeing the light in a station bar, and traveling far and thin. I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes, and hearing the trials of the people there, who's to care if they lose. Take a look, you may see me. I am the parasite of this town. But take a look, you may see me in the dark. For I am the parasite who hangs from your skirt. Questa era Parasite di Nick Drake. Comunque questa Pink Moon, questo terzo album di Nick Drake, purtroppo venderà ancora meno copie dei suoi due predecessori, anche se stavolta aveva ricevuto diverse buone recensioni da parte della stampa specializzata. Chris Blackwell, che al tempo era il capoccia dell'Island Records, credeva che Pink Moon avesse il potenziale per lanciare Drake al grande pubblico, e ci credeva veramente tantissimo, anche se tutto il resto del suo staff era veramente... come si può dire, cioè ce l'aveva a morte con Nick Drake per il suo rifiuto totale per qualsiasi attività promozionale e per qualsiasi altra attività che faccia parte, insomma, della promozione e dell'apparizione, che poi è il succo appunto della pubblicità per far conoscere il disco. E da quello che si dice, appunto, se Chris Blackwell non fosse stato così assolutamente innamorato di questo disco, il resto della Island Records avrebbe letteralmente preso a pedate Nick Drake, perché era veramente frustrante lavorare con lui per il suo assoluto rifiuto, come appunto, come dicevo prima, di qualunque attività promozionale. Però incredibilmente a un certo punto in quel 1971 Drake accetterà un'intervista con Jerry Gilbert di Sound Magazine, che poi anni addietro ricorderà quell'esperienza come veramente sia stato il più timido e introverso folk singer con cui abbia mai parlato nella sua lunghissima carriera, e praticamente di quel poco che gli raccontò, gli raccontò più che altro della sua assoluta volontà di non apparire in pubblico e di intraprendere una qualsivoglia attività promozionale e di pochissimo altro. Racconta che non c'era mai stato una qualsivoglia tipo di connessione tra loro due durante questa intervista, e anzi dice che non crede che si siano mai guardati negli occhi durante tutta questa intervista. E assolutamente non convinto e, come si può dire, sconfortato dall'andamento della sua vita artistica. A un certo punto Nick Drake decide di chiudere completamente la sua carriera artistica, perché era fermamente convinto che non sarebbe mai più riuscito a scrivere niente. Quindi decise, appunto, in quella fine del 1971, di chiudere completamente con la musica, e tornò da Londra a vivere nella casa dei genitori a Tamworth in Arden. Ma all'inizio del 1972 Nick Drake ha un collasso nervoso e verrà ricoverato per 5 settimane. Nel febbraio, rimessosi, nel febbraio del 1974, telefona al tecnico del suono che appunto ha prodotto il suo ultimo album, John Wood, dicendogli che si sente pronto per registrare altre canzoni. Joe Boyd, che nel frattempo se n'era tornato in patria in qualità di mentore, fuggiasco e poi tornato, deciderà di presenziare alle sessioni di registrazioni e che a posteriori ricorderà come terrificanti. Nick era in uno stato terribile, non era in grado di suonare e cantare allo stesso tempo. Per la prima volta dovemmo registrare prima la chitarra e poi la voce, perché non era in grado di fare le due cose insieme. Drake registrerà altre quattro canzoni in quella sessions, ancora non del tutto completate, e nel febbraio del 1974 un'altra canzone, Toe the Line, che verrà registrata nel luglio seguente. E questa probabilmente è la sua ultima incisione in assoluto, perché il 25 novembre del 1974, nella grande casa dei genitori a Tamworth in Arden, dove era tornato a vivere appunto dopo la sua esperienza a Londra, Nick Drake viene ritrovato morto da sua madre a causa di un'eccessiva dose di amitriptillina, che era l'antidepressivo che prendeva abitualmente. Sul piatto del suo stereo continuava a girare un disco dei concerti brandeburghesi di Bach, e sul suo comodino una copia del mito di Sisifo di Albert Camus. Drake brancolava senza meta sui bordi dell'abisso e le sue canzoni erano i pensieri che lo accompagnavano nell'attesa della caduta, dell'imminente caduta. E a questa tragedia esistenziale si somma anche quella artistica. Infatti Drake ebbe ben pochi fan in vita e dovettero passare davvero tantissimi anni dalla sua morte perché la sua arte venisse rivalutata e dato il giusto peso che si merita. In un certo senso, in quel 1974, a soli 26 anni, quindi anche uno di meno per entrare nel famoso club dei 27, fondamentalmente Nick Drake morì di incomprensione. E per chiudere questa puntata di Tonight Alive su questo grande mito di Nick Drake, che ci tenevo tantissimo a farvi conoscere se già non lo conoscevate, ho lasciato quest'ultima canzone di Nick Drake, che è un po', si può dire, il suo testamento artistico e spirituale, Things Behind the Sun. E con questa grande canzone di Nick Drake vi lascio al vostro sabato sera ed anche al mio sabato sera, e rinnovo l'appuntamento con il qui presente Dalai Lama al prossimo appuntamento di Tonight Alive, sempre qui sulle frequenze e sull'indirizzo di Radio Wombat. Ciao e al prossimo sabato. Questa è Things Behind the Sun, Nick Drake, per Tonight Alive. Ciao a tutti. Please beware of them that stare, their only smile to see while the time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. If you see what's meant to be, don't name the day or try to say what happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day's done. If only you see. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day, an autumn for free. Just be what you be. They'll only smile to see while you time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night. Movement in your brain.